non è i fuochi tranchi, è per tutti quelli che sono stanchi. Fai un passo lontano da casa tua, ti credo avanti come un marinaio a prua. Ah sì, è vero, sono io lo stronzo che rappo, ma quando gente ti dice aspetta che scappo, passi il tempo a raccontare ciò che non sei, forse come quando capovolgi un sei. Io bravo con le rime e tu con le stronzate, facciamo un duetto, voi che ne pensate? Io prendo il microfono e tu la parola, tanto sei carico come una carriola. Mi sto divertendo raccontando la tua vita, così fredda come una granita. Non dirmi niente se odio gente come te, che cade prima o poi come te. Fuochi falsi si chiama questo pezzo, e cercherò di essere poco grezzo, ma quando ho incontrato certa gente non mi hanno lasciato altro che niente. E tu diffida dalle loro imitazioni, perché li trovi in giro a tutti sti coglioni. Ti dico che la falsità è il loro prodotto, ne senti nani sono il contrario di tutto. Di quanto sei forte in mezzo alla gente, nella vita premio miglior perdente. Hai capito che non so solo parlare d'amore, rispetto a Celentano l'emozione a tanta voce. Ce l'ho contro tutti ma chi è come te, che parla di tutti e tranne di sé. Giochi contro il mondo per essere migliore, sei una luce senza il suo bagliore. Nelle fandonie racconti ciò che non sei, soprattutto se ti presenti ad una lei. Magari l'incontrerai forse quanto te, ho problemi di stomaco, mi porti un tè. Scusa tanto se ti senti fortunato, t'ho scritto questo pezzo, sei fortunato. Con questo brano ti lascio alla tua vita, alzando il dito medio delle mie dita. Fa chi fa se si chiama questo pezzo, e cercherò di essere poco grezzo, ma quando ho incontrato certa gente non mi hanno lasciato altro che niente. E tu diffida dalle loro imitazioni, perché